24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9. Anche oggi nel nostro sondaggio parliamo di violenza sulle donne, perché ieri c'è stato un caso efferato, l'altro ieri per la verità, a Napoli, un omicidio di una ex fidanzata da parte di un uomo che già un anno prima ci aveva provato. E voi direte, com'è possibile? Cercheremo di spiegarlo alle 8:30 e vi chiediamo nel nostro sondaggio se secondo voi la legge tutela abbastanza le donne dalle violenze. Votate e poi ne parleremo più avanti. Ora, come di consueto, da cosa iniziamo? Dalla lettura dei giornali in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta in primo piano. Irlanda e Corea, male borse ed euro. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, ma la scelta è abbastanza simile sugli altri quotidiani. L'Irlanda fa tremare l'euro e le borse per il Corriere. L'Irlanda affossa euro e borse per Repubblica. Insomma, la situazione finanziaria è monitorata dai giornali. L'apertura politica, per il momento che leggo, quella del giornale è abbastanza esplicita. Berlusconi pronto alle elezioni. Questo per quel che riguarda la politica italiana, che più avanti vedremo. Come di consueto voglio partire dalle segnalazioni che trovate magari all'interno dei quotidiani. La prima, pagina 21 sul Corriere della Sera, una notizia che ha solo il Corriere della Sera, riguarda ancora la morte di Luca Massari, il tassista che, come ricordate, è stato aggredito dopo aver investito e ucciso un cane. Dopo un mese di agonia è morto. E ora davvero una vicenda incredibile: il delitto del taxi, l'ultimo sfregio, rubati i fondi per la famiglia. È stata violata la sede del sindacato dove i tassisti, i colleghi di Massari, avevano raccolto 15.000 euro. Ebbene, erano stati consegnati, depositati alla sede del sindacato. Ebbene, qualcuno, dopo aver rotto il vetro dell'unica finestra senza allarme, è salito al primo piano, è andato alla cassaforte e ha fatto scomparire questi denari. Un furto anomalo viene definito, del quale la famiglia non vuole parlare, d'altronde c'è ancora troppo dolore, non ne vogliono parlare neanche i colleghi tassisti. I soldi, che comunque, fa sapere Michele Focarete sul Corriere, sono coperti da polizza assicurativa, dunque dovrebbero arrivare ai genitori di Luca. Certo, però, resta l'amaro in bocca, come titolo al Corriere, l'ultimo sfregio, delitto del taxi, ultimo sfregio, rubati i fondi per la famiglia. Poi io vi voglio segnalare una storia che a me ha fatto un sacco ridere. Non so, non dovrei ridere perché la vicenda in realtà è molto seria. Riguarda la politica internazionale, la trovate su tutti i giornali, dal Sole 24 Ore, finto talebano ai colloqui di pace. Vi ricordate, di recente si è parlato anche di grandi discussioni in America, è giusto o no coinvolgere i talebani nel colloqui per la pacificazione futura dell'Afghanistan? Con un temone molto interessante, insomma, dialogare con il nemico, dialogare con quelli che fino a poco fa erano nemici. Solo che è successa una cosa incredibile. Sono accaduti anche alcuni incontri ad altissimi livelli, anche col presidente Karzai, tra i servizi occidentali e i talebani. Solo che quello che si è spacciato per il capo dei talebani per questi colloqui era finto. Il Mullah Mansur si è spacciato in realtà per Mullah Mansur, ha ottenuto fiducia e denaro, tanto denaro, e poi si è dato. È una vicenda che ha scoperto il New York Times, anche Repubblica la pone così: soldi per trattare al capo dei talebani, ma ai colloqui c'era un impostore, beffa agli occidentali e a Karzai. Anche la Stampa, il finto talebano che beffò la NATO. Anche il Riformista in prima pagina, io continuo a ridere. L'audace colpo del talebano ignoto. Si spacciava per il Mullah Mansur, quando uno che il Mullah Mansur lo conosceva ha iniziato a dire: ma non gli somiglia molto questo che è seduto al tavolo dei colloqui. Però si sa, la clandestinità invecchia, la guerra stravolge la memoria, l'insorgenza logora. E dunque questo si è fatto dare anche un passaggio sugli aerei NATO, è andato a parlare anche con il presidente afghano Karzai, che ora furiosamente smentisce l'incontro. Pare, secondo qualche giornale americano, che fosse un ciabattino di Quetta, cioè una città del Pakistan, che si è spacciato per il capo dei talebani a colloquio con i massimi vertici dell'Occidente, si è presa un po' di soldi, un po' di passaggi sulle aeree NATO, un bel po' di soldi pare, e poi si è dato. E l'impostore talebano, così, ci ha fregato un po' di soldi. E noi dell'Occidente vorremmo conquistare l'Afghanistan e pacificare l'Afghanistan e manco sappiamo con chi dobbiamo parlare. Ma pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalla politica. In primo piano. La politica fa registrare, ieri leggendo i giornali, il fatto che il governo sia andato sotto, la maggioranza sia andata sotto in Parlamento un paio di volte, si votava per estendere di un seggio il Parlamento europeo, o meglio concedere un europarlamentare all'Italia in più, sarà uno dell'UDC e non del Popolo della Libertà ad andare. E poi si registra anche il titolo, io voglio partire da qui, dal titolo del giornale molto emblematico, l'ho letto anche prima, Berlusconi pronto alle elezioni. Il termometro della politica fa pensare che sia quella un po' la direzione e molti leggono così anche l'intervento di ieri in diretta, l'abbiamo sentito nel GR, di Berlusconi che ha telefonato a Ballarò, si parlava di rifiuti e ha attaccato anche duramente il conduttore Floris. Lei pensa che la RAI sia sua mentre pagata dai soldi di tutti, siamo intervenuti a Napoli, abbiamo rimediato con la protezione civile alla situazione. E un Berlusconi che attacca Rai e partito, Berlusconi torna all'attacco per il Corriere della Sera, questa è la sintesi politica, così anche Repubblica, Berlusconi rompe a Ballarò, mistificatori, la Rai non è vostra, ma che si vada alle elezioni come detto nonostante i conti, Berlusconi per quel che riguarda la fiducia dimostri ottimismo, cioè la fiducia il 14 dicembre secondo sia il Corriere della Repubblica ma anche gli altri giornali, Berlusconi è ottimista nel senso che 314 voti sarebbero già garantiti, la maggioranza è a 316 e infatti il Corriere della Sera per esempio con Monica Guerzoni a pagina 6 racconta quello che sono i tentativi sempre di convincere i vari deputati a votare per l'uno o per l'altra parte, ecco qui per esempio il premier convince Massidda e c'è chi punta sui malati. Pier Giorgio Massidda, che veniva dato per in viaggio verso future libertà di fine, ha parlato con Berlusconi e ha cambiato idea. Per ora resto nel PDL. Il premier ha assunto degli impegni nei miei confronti. E poi circolano delle battute terribili sulle possibili malattie quel giorno, magari di chi non vuole schierarsi da una parte o dall'altra, ma trova un'indisposizione, come si faceva a scuola, no? Quando uno si inventava, quando avevamo 10, 12 anni o 15 anni, di avere un po' di febbre o mal di testa per non presentarsi a scuola. Ebbene, a Palazzo Madama proprio il senatore Pier Giorgio Massidda fa circolare una battuta non proprio british. Vedrete che il 14 dicembre anche molti uomini resteranno a casa con il ciclo mestruale. Parlamentari finiani, centristi, perfino esponenti del PD. Perché pur di non affossare questo governo, anche il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, e chi l'ha detto che Berlusconi per ottenere la fiducia deve avere 316 voti? Possono essere anche 285. Dov'è questa gran voglia di mandare a casa il governo? Il 14 ci saranno un sacco di malati. Attenzione allora alle epidemie di influenza o di mal di pancia prima del 14 per i nostri parlamentari. Come detto, Berlusconi se ne parla da alcuni giorni, la possibilità che cambi il partito. Repubblica è esplicito, eccolo qua, Francesco Bei in un reportage a pagina 6 e 7 nel retroscena politico, Berlusconi avrebbe già deciso ormai di cambiare il nome del partito, ieri ne parlava anche il Sole 24 Ore, è stato colto questo come nome Avanti Italia, con Berlusconi presidente. Questo dice oggi Repubblica. Tra l'altro ieri a Palazzo Grazioli sono stati intercettati un paio di persone che sono entrate e ai giornalisti hanno rivelato di lavorare da 30 anni per Berlusconi e di occuparsi di grafica. Dunque, tutto fa supporre il simbolo. Avanti Italia. Questo, secondo Repubblica, potrebbe essere il nuovo partito di Berlusconi. Come detto, si vuole andare alle elezioni, almeno scrive così nell'editoriale di prima pagina del giornale Vittorio Feltri. Mi pare chiaro. Intanto Berlusconi, infatti, per non sbagliare, ha indetto la grande mobilitazione nazionale per raccogliere firme a favore della propria leadership. Lo scopo evidente è avviare i motori della campagna elettorale e predisporsi a vincere le consultazioni per la quarta volta. Auguri, scrive Feltri. D'altronde anche Libero è esplicito: il dado è tratto, si torna a votare. Pagina 3, Fausto Carioti. Tutto fa supporre anche il fatto che Berlusconi abbia lanciato questa manifestazione gazebo in tutta Italia l'11 dicembre, proprio qualche giorno prima la fiducia, nel giorno in cui anche Bersani del PD ha detto noi il 12 credo dicembre andremo in piazza. Insomma, fa capire, almeno secondo i giornali anche vicini al centrodestra, che quello sarà un po' quasi quasi l'inizio della nuova campagna elettorale. Chi non vuole andare al voto è Pisanu, che parla per la prima volta, perché è stato negli ultimi tempi accostato anche a un possibile esecutivo tecnico da lui guidato. Pisanu, presidente della Commissione Antimafia, parla in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo al Corriere della Sera, pagina 10, un'intera pagina. Pisanu che dice no al voto. Sento tanti proclamare di non temere le elezioni, io invece le temo, resto totalmente contrario perché ho paura del cozzo devastante tra crisi politica e crisi economica, la tempesta perfetta che si abbatterebbe sul nostro paese. Dunque meglio un altro esecutivo anche senza il Premier. Berlusconi è per volontà degli elettori il regista, il primatore di questa stagione politica, può fare entrambe le parti o sceglierne una sola, dice Pisanu. Sta dicendo che è possibile un governo guidato da un premier che non sia Berlusconi? Chiede Cazzullo. Questo dipende da lui. Quel che invece non può scegliere è la via di fuga delle elezioni anticipate, posto che il Presidente della Repubblica e le circostanze gli consentono di imboccarla agevolmente. Penso che il 14 dicembre Berlusconi debba riproporre il patto di legislatura, dicendo tutta la verità agli italiani, non solo sulla gravità della crisi economica e sociale, ma anche sugli altri rischi che, se non verranno scongiurati, determineranno una sorta di cedimento strutturale dell'Italia. Insomma, Pisanu che dice no, le elezioni, non si vada alle elezioni, così anche D'Alema, intervistato da Repubblica, il momento è grave, ci vuole un governo aperto anche al popolo della libertà, basta che la premessa è Berlusconi si faccia da parte. Intanto chi sembra aver cambiato idea è Mara Carfagna. Nel giro di due giorni la Carfagna ci ripensa, non mi dimetto più, così titola sulla Stampa Guido Ruotolo, pagina 5. Pare che le rassicurazioni Mara Carfagna le abbia avute dal decreto legge che ieri finalmente è arrivato al Quirinale, quello sui rifiuti. La battaglia era chi deve costruire i termovalorizzatori, i comuni o meglio la regione a questo punto, o le province, come volevano i presidenti di provincia, e la Carfagna si è scontrata molto, per esempio, col presidente della provincia di Salerno, Cirielli, che è stato nostro ospite. Ebbene, ora si è trovato un compromesso, sarà Caldoro, dunque il presidente della regione, a nominare i commissari straordinari per i termovalorizzatori. La Carfagna pare abbastanza rassicurata e dunque per la Stampa ora dice non mi dimetto più, quando dicevo quello che pensavo nel chiuso delle stanze delle riunioni nessuno mi dava ascolto, adesso invece, come dire, adesso che ho parlato a lungo e in maniera potente, ecco che mi ascoltano. Registro tra l'altro che Il Foglio intervista in prima pagina il governatore della campagna Stefano Caldoro, che dice non c'è la situazione del 2008, ve l'assicuro, posso dirlo con certezza, la situazione non è paragonabile a quella di due anni fa, il non raccolto per le strade di Napoli equivale alla produzione di un giorno e mezzo di rifiuti, circa 10.000 tonnellate contro le 250.000 di due anni fa. Il problema più urgente è ripulire la svelta la città di Napoli. Con l'aiuto di Roma, con le province coinvolte, contiamo di poter individuare dei siti di stoccaggio provvisori. E tra l'altro i rifiuti saranno smaltiti contemporaneamente negli impianti di altre regioni. Questo è il tema. Vi annuncio che alle 8.20 avremo ospite il ministro Fitto, i rapporti con le regioni, ministro che oggi incontrerà le regioni per dire vi prendete un po' della spazzatura di Napoli per favore per risolvere questa situazione temporanea, e vedremo che risponderanno le regioni. Ieri il presidente della Toscana qui alle 8.20 ha detto noi siamo disponibili. Napolitano ieri ha parlato nell'occasione dei premi dati, i premi De Sica, i David di Donatello, ha ricevuto il mondo dello spettacolo, lo riceve due volte l'anno, e ha parlato di tagli. E dice, Napolitano ha detto va bene tagliare la spesa pubblica, ma mortificare così la cultura non risana i conti. Sapete che sono giorni in cui la cultura è in fermento, per esempio Riccardo Scamarcio, attore, oggi a pagina 12 del Corriere della Sera fa un'intervista dicendo vogliamo le risorse, non assistenza, beata Francia, dove tra l'altro Scamarcio vive con Valeria Golino. La Francia ci fa capire quanto siamo indietro, andrebbe presa come riferimento legislativo. Scamarcio che attacca Brunetta. Brunetta gli viene chiesto quando disse lo spettacolo non è cultura, non va finanziato. Questo almeno chiede il Corriere della Sera. Brunetta è un uomo di spettacolo, questo è chiaro, conosce bene i meccanismi. E ricordo che quando definì il cinema ciarpame culturale aveva bisogno di attirare l'attenzione in un incontro dove il pubblico era distratto. Ha detto una gran volgarità comportandosi come un saltimbanco capace di dire le cose più aberranti per avere i riflettori su di sé. E poi di Sandro Bondi, il ministro della cultura, dice Scamarcio, forse patisce un po' troppo gli altri ministri, non riusciamo ad avere un dialogo con lui. Beata Francia. So già le battute, no, della gente, allora se ne vada in Francia Scamarcio, insomma, giusto per buttare tutto in caciara. Ma voglio dire, è stato citato il ministro Bondi che da alcuni giorni è sotto un attacco molto duro di varie inchieste portate avanti dal Fatto Quotidiano. Ieri hanno evidenziato, dopo aver evidenziato che il figlio della compagna di Bondi ha una consulenza al ministero, dopo aver evidenziato ieri che l'ex marito della compagna di Bondi ha una consulenza da 25.000 euro al ministero. Ieri Bondi raccontava dal Fatto Quotidiano, ha telefonato dicendo è un caso disperato, lasciate stare, era un caso umano, ma è un fatto privato. Oggi Filippo Facci su Libero è molto molto duro. Pene culturali, dice, il discorso cambia. Noi non abbiamo chiesto la premessa di Facci, le dimissioni per la vicenda di Pompei, ma il discorso cambia a proposito di quanto ha scoperto il Fatto Quotidiano. Bondi sta sistemando i suoi casini familiari a spese nostre, ha dato una consulenza a Fabrizio Indaco, il figlio della sua promessa sposa, ne ha dato un'altra all'ex marito di lei, Roberto Indaco, in attesa di divorzio. Si era beccato pure un'interrogazione parlamentare di recente perché al viaggio inaugurale del Freccia Rossa si era portato il cane Grisby, suggello dell'amore con Emanuela. Ma la cosa che fa più incazzare, scrive Facci, è la penosa difesa del ministro. Sono intervenuto per risolvere due casi umani, la tragedia di un uomo senza lavoro. Desidererei rispetto. Si tratta di una vicenda molto dolorosa e privata. A carico nostro, commenta Facci. Noi paghiamo le tasse per agevolare il divorzio di Emanuela Repetti. Ma pensate che gli attacchi a Bondi siano finiti? Il Fatto Quotidiano, oggi pagina 3. Bondi e l'attrice del Caimano deve vincere il Leone d'Oro. È stato inventato un premio per un'attrice. Da qui ripartiamo, da questo racconto sul Fatto dopo il traffico. In primo piano. Bondi e l'attrice del Caimano deve vincere il Leone d'Oro. Racconto di Malcolm Pagani, pagina 3 del Fatto. La telefonata arriva durante l'estate. Nella città deserta un uomo lavora. Da una parte del filo il ministro Bondi, dall'altro Nicola Borrelli, direttore generale del ministero. Dottore, allarme rosso, un'emergenza terrificante. C'è un'amica molto cara al primo ministro bulgaro e al premier, una brava ragazza, si chiama Michelle Bonev. Dice che vuole andare al Festival di Venezia a partecipare, non le basta più. Il presidente Berlusconi le ha promesso che lo vincerà e sarà una bellissima serata piena di luci e colori, una serata di libertà. Lei se n'è convinta e non c'è verso di farle cambiare idea. Così, secondo il Fatto Quotidiano, nasce l'idea di inventare letteralmente un premio inesistente per gratificare Michelle Bonev, definita appunto attrice vicina al premier bulgaro ma anche a Silvio Berlusconi. Ed ecco allora Malcolm Pagani che racconta: ci fu questa serata. Le promesse vanno mantenute, una messa in scena da Oscar, una targa fasulla col logo della Comunità Europea e del Ministero che i ben informati raccontano ordinata in tutta fretta in una bottega romana. Un premio inventato dal nulla, una gag istituzionalizzata che ha come palcoscenico il Lido e una serie di figuranti più o meno consapevoli, ministri, parlamentari europei, clac assortite. Michelle Bonev, all'anagrafe Dragomira, non ha vinto il Leone d'Oro, ma ha avuto l'impressione di farlo. È stato dato il premio approfittando dell'evento Action for Women, un premio al 60° anniversario della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dal Ministro per i beni e le attività culturali, un premio speciale della Biennale. E racconta Malcolm Pagani ci furono anche ministri, Giancarlo Galan, il presidente Berlusconi mi ha pregato di portarle personalmente i suoi saluti calorosi, io lo faccio volentieri con tutto l'affetto di cui sono capace, stringe la mano questa attrice, Mara Carfagna, sono orgogliosa di poter omaggiare una ragazza così coraggiosa, e gli sconvolti Marco Muller e Paolo Baratta, cioè il direttore della mostra e presidente della Biennale, chiamati in tutta fretta dal ministero per trovare un adeguato palcoscenico al desiderio del premier e terrorizzati dalla presenza della stampa. Unici assenti, infatti, i giornalisti. Vabbè, questo per il Fatto Quotidiano, c'è un premio inventato dal ministero per Michel Bonnev. Quindi nuove polemiche su Sandro Bondi. Io, come detto, sul Sole 24 Ore si parla di, ma è un po' l'apertura di tutti i quotidiani, Irlanda e Corea, male borse ed euro, questa è l'apertura del Sole. Tra l'altro c'è un duro colpo lanciato all'euro dalla Merkel, la cancelliera tedesca affonda l'euro, questo a pagina 3. Maximilian Cellino racconta che paura è la parola chiave per capire la giornata ieri sui mercati, e un duro colpo all'euro è stato dato da Angela Merkel, anche a pagina 3 del Corriere della Sera, dall'euro si può uscire, una situazione eccezionalmente seria, così Frau Merkel dice, il paese che non è in grado di avere conti pubblici stabili, e questo ragionamento mina la solidità dell'euro, e quindi Frau Merkel ha ribadito, se l'euro deve essere una valuta stabile il patto di stabilità e crescita va mantenuto anche con la clausola del possibile default in un paese, di un paese coi conti fuori controllo. Insomma, quello che ci si chiede è questo: quello che è successo in Irlanda, e se lo chiede anche il Secolo XIX, un'intera pagina, può contagiare anche gli altri paesi, è un po' il dilemma. A pagina 3, sarà contagiata anche l'Italia? A queste risposte del secolo, a questa domanda del Secolo XIX rispondono economisti come Giacomo Vaciago, Alberto Quadrio Curzio, Tito Boeri, perché dopo la Grecia e l'Irlanda è chiaro che tutti gli stati si pongono il rischio di un possibile contagio. Trovate un po' su tutti i giornali quella che secondo me è una incredibile vergogna, vale a dire che parte il processo alla strage dei Georgofili e lo Stato non è parte civile. La spiegazione incredibile dell'avvocatura dello Stato è: non eravamo stati informati del processo, ne eravamo venuti a conoscenza solo per pubblici annunci e nulla di scritto. Tanto che l'Unità ci titola in prima pagina, vuoto di memoria, una foto della strage di mafia del 93, 5 morti, vari feriti, e un'intervista a Giovanna Maggiani Kelly, che è la portavoce dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage mafiosa in via dei Georgofili, che dice: come si può scordare una strage? L'avvocatura di Stato non si costituirà parte civile? Ci sentiamo totalmente dimenticati. Voglio concludere. Allora, Berlusconi ha chiamato in TV da Ballarò diffidendo, no, siete mistificatori. Che ha fatto Sarkozy coi giornalisti? Quando va all'estero Sarkozy in genere fa dei colloqui coi giornalisti che rimangono off the records, cioè non finisce nulla sulla stampa. Stavolta invece finisce sulla stampa. Amici pedofili, a domani. Così ha salutato i giornalisti. Pedofili. Perché era un ragionamento per assurdo, era stato accusato, rispondeva delle domande di presunte tangenti, riferite a qualche anno fa, e Nicolas Sarkozy dice: è un mondo di pazzi, voi giornalisti non verificate niente, io non ho nulla contro di lei, per esempio, puntando il dito con un giornalista a caso, ma pare che lei sia un pedofilo. Chi me l'ha detto? Ne ho l'intima convinzione, lei può provare la sua innocenza? E poi il saluto finale. Cari amici pedofili giornalisti, salute a tutti. Questo è il presidente della Francia, Sarkozy. Ci fermiamo il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Saluto il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Ministro, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, oggi lei incontrerà le regioni questa mattina a chiedere una domanda semplice tra le altre. Vi prendete un po' di spazzatura campana per fronteggiare questa situazione? Perché una regione dovrebbe accettare, ministro? Ma dovrebbe accettare per un senso di solidarietà che deve caratterizzare il rapporto tra le diverse regioni, perché penso che questo sia un elemento dal quale non si possa prescindere, e dovrebbe partecipare per risolvere una questione che riguarda un territorio e che il governo, dopo aver dato una risposta complessiva, oggi si trova a riaffrontare per via di responsabilità dal punto di vista locale, che devono essere risolte in via definitiva. Cioè, le dice responsabilità locale, cosa mi sta dicendo? Che è colpa, per esempio il Premier l'ha detto, è colpa del comune di Napoli? No, ma basta leggere la documentazione, le carte. Il governo ha varato dal 2008 a fine del 2009 una serie di atti, compreso la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, l'assistenza degli impianti intermedi e discariche. Al 31 dicembre del 2009 sono cessati i poteri straordinari del governo e sono ritornati i poteri agli enti locali. Dal 1 gennaio di quest'anno i poteri sono in capo agli enti locali. Quello che è accaduto in questo anno è responsabilità precisa degli enti locali, e quindi il governo su questa vicenda qui prende atto di questa situazione, è intervenuto, come è noto, con il Presidente del Consiglio, sia per fare un accordo fra i sindaci e risolvere il problema della chiusura e riapertura di alcune discariche, sia individuando in modo molto chiaro con un intervento con l'esercito per ripulire la città da rifiuti, sì, qualche giorno addietro. Oggi siamo in questa situazione. Il decreto che il governo ha varato riattiva dei poteri e delle condizioni straordinarie di fronte ad una incapacità cronica che esiste a degli livello enti locali. Però le chiedo, Ministro, ha sentito sia la Lega sia per esempio Formigoni dire mi sono rotto, non si può fare così? Cioè, l'apertura ieri a questi microfoni è venuta per esempio dal Presidente della Toscana di centrosinistra, ma Lega e PDL non è che sono molto contenti, no? Ma guardi, io non faccio polemiche, i toni talvolta sopra le righe servono anche a parlare al proprio popolo, ai propri cittadini, per cercare di marcare una differenza. È evidente però che qui ci troviamo in presenza di una situazione complessa, una urgenza, è un tema limitato a pochi giorni, perché questa questione riguarderà un mese, non più di un mese. Un mese. E se divisa per le varie regioni comporterà un sacrificio minimo di diverse regioni, che non inciderà in alcun modo sul ciclo dei rifiuti di queste regioni. Si tratta di evitare una polemica che ha più un sapore politico. Per esempio, mi dia un dato, Ministro, quanto serve smaltire per regione, o quanto, ci sono già dei numeri? Guardi, i numeri li stanno mettendo a punto, se non sbaglio dovrebbero essere per un mese circa 3 camion al giorno, per un complessivo valore di un centinaio di tonnellate, ma ecco, su questo però non voglio essere... non voglio darle indicazioni. Sarà più preciso con i tecnici, diciamo. Sì, insomma, una cosa più tecnica, nella quale non vorrei avventurarmi con certezza. Ministro, ecco, però posso assicurare, sì, che la quantità di risorse, la quantità di rifiuti che devono essere distribuiti per le regioni è una quantità sostanzialmente minima, e quindi anche le valutazioni sono più di carattere politico rispetto all'accoglimento di queste rifiuti, che rispetto invece alla entità e alla quantità dei rifiuti. Ministro, nell'ultimo minuto, ieri lei era a Ballarò quando è arrivata l'irruzione, c'è stata questa irruzione della telefonata, anche l'abbiamo sentita nel GR con litigio col conduttore Floris. Ha fatto bene Berlusconi a chiamare e a dare mistificatori? Chiarito quanto anche io precedentemente e successivamente ho chiarito. Il servizio che è andato in onda era un servizio nel quale si rappresentava l'associazione di Berlusconi al fallimento del governo Prodi, indicando delle conferenze stampa nelle quali il Presidente avrebbe detto, anzi diceva, risolverò questa questione. In effetti le conferenze stampa erano state tutte fatte realmente, una il 22 ottobre e dopo 10 giorni quella questione fu risolta con l'accordo dei sindaci, e l'altra il 27 di ottobre o il 2 di novembre, non ricordo, e quella questione è stata risolta con lo svuotamento in quei giorni dei rifiuti da Napoli con l'esercito. Però ha fatto un'accusa forte, ha detto siete mistificatori, lei l'ha condivisa. No, ma cioè, al di là dei termini, il Presidente del Consiglio ha indicato come in quel servizio venisse riportata una cosa non vera, così come il tentativo in atto di dare responsabilità di questa vicenda in capo al Presidente del Consiglio, che da circa 11 mesi non è più responsabile straordinario di questa questione, perché quando lo è stato ha realizzato il termovalorizzatore, ha realizzato gli impianti intermedi, ha aumentato la percentuale della differenziata, ha fatto ciò che bisognava fare, e oggi magari non ci si pone il problema di come e del perché il Comune di Napoli dal 1 gennaio di quest'anno, avendo un obiettivo pari al 25% della differenziata e ancora al 16%, e quindi questa è una delle principali responsabilità insieme a tante altre a livello locale, mi sembra che tutto questo non possa non essere raccontato così com'è. Quindi ha fatto, quindi bene. Il presidente Berlusconi andava assolutamente in questa direzione. Va bene. La ringrazio, ministro, per essere stato con noi. Buona giornata. A lei, Raffaele Fitto, ministro per i rapporti con le regioni. Questa mattina, credo 10:30, l'incontro con le regioni per dire prendetevi un po' di spazzatura. Una situazione che ha definito il ministro poca quantità comunque da affrontare per la situazione contingente. Ci fermiamo, noi parliamo di violenza sulle donne nel nostro sondaggio, perché ci sono dati molto molto negativi, ci sono episodi di cronaca, il primo di quello da cui vorremmo partire a Napoli, l'uccisione di una donna di 25 anni da parte del suo ex fidanzato che già un anno fa aveva provato a ucciderla. Com'è possibile, direte voi, e invece è successo. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. La domanda che vi poniamo è: secondo voi la legge tutela abbastanza le donne dal rischio di violenza? Nel nostro sondaggio tra poco. 24 mattino. Sono le 8:34 e allora nel nostro sondaggio oggi parliamo di violenza sulle donne. Due cifre oggi sull'unità. 13.587 donne nel 2009 si sono rivolte a un centro antiviolenza e dati Istat del 2006, quasi 7 milioni di donne vittime di violenza o molestia. Noi vi chiediamo oggi: secondo voi la legge tutela abbastanza le donne? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Avere paura di uscire quando cala il buio. Avere paura di uscire con il cane quando fuori non c'è nessuno. Avere paura di un marito geloso. Essere picchiata da un marito geloso. Essere uccisa da un marito geloso. Non poter indossare un abito corto sui mezzi pubblici. Essere molestata in metropolitana. Sentir dire che si è state molestate perché si indossava un abito corto. Essere licenziata perché si vuole avere un figlio. Non trovare lavoro perché si è brutte. Questo è l'elenco che è stato letto in Vieni via con me di Arabella Soroldoni, che è stato letto dall'attrice Laura Morante. Avete sentito l'elenco in cui si parla appunto delle paure delle donne. Io voglio raccontare la storia di Eliana Femiano, 25 anni, è stata uccisa 2 giorni fa dall'ex fidanzato. L'ex fidanzato si trovava agli arresti domiciliari e un anno prima aveva cercato di ammazzare la stessa Eliana. Non c'era riuscito, per questo scontava la pena ai domiciliari. Perché ai domiciliari? Io intanto voglio salutare il presidente del Tribunale di Napoli, Carlo Alemi. Presidente, buongiorno. Presidente, ci sente? Presidente Alemi, è caduta la linea. Lo recuperiamo. Saluto l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, buongiorno. Buongiorno, adesso io ci sono. Ripristiniamo il collegamento con il presidente del Tribunale di Napoli, perché la domanda che ci si pone è: perché quest'uomo che un anno fa aveva tentato di uccidere e quindi doveva rispondere per tentato omicidio, questa ragazza, la sua ex fidanzata, fosse agli arresti domiciliari e nella casa dove era agli arresti domiciliari la ragazza è andata anche qui, perché l'ha fatto, non si sa, in ogni caso è stata uccisa nuovamente. Siccome abbiamo ripristinato la linea, presidente, ci sente? Presidente Alemi, buongiorno. Ecco, purtroppo la linea è un po' traballante. Le chiedo, le polemiche ci sono perché il dottor Carlo Alessandro Modestino, giudice per le indagini preliminari, ha concesso gli arresti domiciliari a questo ragazzo che aveva già tentato di uccidere la sua ex fidanzata e ora c'è riuscito. Che dobbiamo dire, presidente? Che dobbiamo dire sicuramente il provvedimento evidentemente non è stato un provvedimento felice. Purtroppo ce ne sono una serie di situazioni, bisognerebbe leggersi le carte, vedere sulla base di quali elementi il collega ha concesso di arresti domiciliari. No, io ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho il provvedimento, era incensurato. No, non delle carte, ecco, si mi... non è, sì, diciamo, comunque non era è incensurato, non aveva pericolo di fuga. Gli arresti domiciliari sono stati messi a distanza di vari chilometri da dove abitava la ragazza. Per questi motivi Luigi Faccetti è stato ritenuto, insomma, idoneo agli arresti domiciliari. Del resto le esigenze cautelari che giustificano questi provvedimenti mi sembra che fossero anche abbastanza fondate. Io quello che non riesco a capire è che ci facesse la ragazza a Terracina, perché non è che Faccetti abbia si sia allontanato e sia andato a Napoli, l'abbia colpito altrove. Questa ragazza che è stata già aggredita e seriamente, pericolosamente una volta, io vorrei capire come mai si trovasse poi in casa di questo signore. Questo sì, è successo, cioè il primo fatto a Napoli, poi l'uomo era a Terracina in provincia di Latina, esatto, gli arresti domiciliari, esatto. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione dove erano gli arresti domiciliari, dove è andata la ragazza. Capito, questa ragazza che ci ha dato, come è andata lì, ma io non è che... E per carità, poi Presidente, non è più qui la ragazza per potercelo spiegare. Purtroppo per tutti e per i suoi, innanzitutto io me ne rendo conto che è un fatto dolorosissimo e purtroppo evidentemente le informazioni che sono state date al collega lo hanno indotto a prendere quella decisione che ex posta naturalmente si rivela assolutamente sbagliata. La decisione dice sbagliata ex posto, ovviamente, cioè quando ci sono verificati i fatti, ma davvero Presidente, non secondo lei non in un caso del genere, cioè tentato omicidio, non si poteva tenerlo in carcere? Detto che certamente la ragazza, mannaggia, perché è andata in quella casa, questo la domanda rimane, ma ripeto, questo non toglie niente a tutto il discorso che stiamo facendo noi, però il discorso che stiamo facendo noi, se noi considerassimo quanti episodi simili ce ne sono in cui si adotta un provvedimento dello stesso genere di quello adottato dal collega, io non voglio fare nessuna difesa d'ufficio, però si risolvono positivamente e quindi si rivela esatta la valutazione fatta dal collega. Purtroppo è una valutazione sicuramente sbagliata che non permetterà più a questa povera figlia di rimanere dove dovrebbe stare in questo momento e non dove sta. Avvocato Anna Maria Verdanini De Pace, lei se la sente? Certo, la ragazza ha commesso un errore, però voglio dire, poi è un errore, bisogna capire perché qualcuno l'ha portata lì, se l'ha convinta, se magari l'ha costretta con la forza, questo noi non possiamo neanche sapere. Ci si chiede però se la legge tuteli abbastanza le donne dal rischio violenza, e quando avvengono questi casi ce lo si chiede due volte. Allora, in Italia non esiste la pena di morte e la fucilazione, esiste la privazione della libertà, che si può esprimere col carcere ma si esprime anche con gli arresti domiciliari. Stare agli arresti domiciliari è una privazione della libertà, è una pena contenitiva. Secondo me il giudice ha sbagliato fino a un certo punto, ha tenuto conto di una serie di cose, avrà tenuto conto anche dell'affollamento inumano delle carceri, avrà tenuto conto di queste cose. In teoria lui non è uscito di casa, non è mai uscito di casa, quindi è rimasto, ha rispettato la sua posizione. La ragazza non l'ha rispettata. Allora la ragazza in teoria, se ci è andata di sua volontà, ha violato lei stessa la legge, quindi uno non può prendersela necessariamente con questo giudice, perché tutto poteva pensare il giudice tranne che la ragazza andasse a casa di lui, considerato che è lontano. Se poi dopo c'è stato un rapimento di questa ragazza per cui è stata portata lì, allora c'è un altro reato, certo, c'è un altro crimine per il quale non possiamo dare addosso al giudice, che avrà scelto sulla base delle carte, delle situazioni, eccetera. Non credo proprio che sia stato il giudice a violare, qui altre sono le ipotesi. E in genere le chiedo, quei dati dell'Istat nel 2006, la stima 7 milioni di donne vittime di violenza o molestia, la impressionano? Mi impressiona moltissimo e io mi batto fatto perché ciò non avvenga. So io quante fatiche faccio tutti i giorni con le forze dell'ordine, con i giudici, ci sono tante ipotesi di stalking durante il periodo che va dall'inizio della separazione fino alla sentenza e anche dopo, tante volte. Purtroppo spesso vengono banalizzati i racconti che vengono fatti dagli avvocati, che vengono fatti dalle vittime, le persone sembrano non crederci, anche perché tutti si aspettano di trovarsi di fronte il violento con la faccia da orco e si muovono solo in questa ipotesi, che è un'ipotesi del tutto residuale, certo. Perché le persone arrivano anche progressivamente alla violenza, e la violenza è percepibile da una serie di segnali, da una serie di indizi che ci sono, e quindi ci dovrebbe essere più allarme. Allora ci sono delle città in cui c'è molta più attenzione, ci sono delle squadre specializzate nella polizia proprio per queste, allora capiscono, a Roma col dottor Rizzi, a Milano, insomma ci sono, in altri posti c'è poca preparazione. Ecco, c'è forse poca preparazione, tra l'altro, però si stanno muovendo. Io voglio salutare la professoressa Anna Boldri, che già su questo tema abbiamo avuto. Professoressa, buongiorno, insegna a Napoli, esperta di stalking. Le chiedo intanto, è stata... E questa, ogni tanto c'è la sottovalutazione, spesso uno dei comportamenti che si dice anche alle donne quando sono minacciate è: non accettate il cosiddetto incontro chiarificatore, l'ultimo incontro, la voglia di dire ci parliamo l'ultima volta e poi basta, perché molto spesso lì si nascondono dei pericoli, è così? Sì, la situazione ovviamente è complessa, nel senso che innanzitutto, anche dall'esperienza proprio quotidiana di lavoro nei centri antiviolenza, sono responsabile dello sportello anti-stalking, quello dell'Associazione Differenza Donna dei centri provinciali di Roma. Moltissime sono le ragazze, anche giovani, come potrebbe essere questa compagnia, insomma, che è stata uccisa a Terracina, sono ragazze che, avendo avuto una relazione con il loro carnefice, non è così facile dire non devi più parlarci, non devi più sentirlo, non devi più vederlo. I meccanismi sono tantissimi, c'è forse da parte delle stesse ragazze o donne una sottovalutazione del rischio, ma se questo anche fosse vero, sta proprio alle istituzioni, non per spostare la responsabilità, perché l'unica persona responsabile di queste violenze è l'autore, questo non dobbiamo mai ovviamente dimenticarlo, tuttavia è importante prendere sempre dei provvedimenti, da una parte a protezione della vittima, dall'altra a limitazione della libertà e eventualmente, solo che in Italia è del tutto assente, trattamento dell'autore, perché questo soggetto che è stato in carcere, quanto ho capito, 5 mesi e poi agli arresti domiciliari, quindi con un provvedimento limitativo della propria libertà importante, non ha capito niente, anzi questo sicuramente è peggiorato la sua situazione, indipendentemente dal fatto che la ragazza sia andata lì. Certo, la reazione c'è stata, tra l'altro, ma da qui voglio ripartire dopo il traffico. Siccome io ho l'ordinanza del giudice dottor Modestino, che ha deciso il carcere, gli arresti domiciliari, dal carcere ai domiciliari per l'autore di questo omicidio, e nel provvedimento ci sono intanto il parere decisamente contrario della procura a questa richiesta degli avvocati, ma il giudice ha deciso diversamente, e poi per tutti i motivi si è ordinata la scarcerazione della persona che è stata autorizzata a recarsi senza scorta presso l'indicata abitazione per gli arresti domiciliari, per la via più breve e per il tempo strettamente necessario. Quindi per un momento questa persona avrebbe anche potuto, uscito dal carcere, andare a cercare la ragazza, insomma, vista la pericolosità. Comunque il traffico, e rientriamo da qui. Io sono o blanco o nero. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 76% però nel nostro sondaggio dice no, non ci sono leggi che tutelano abbastanza le donne dal rischio di violenza, voglio sentire due ascoltatori, un'ascoltatrice iniziare. Daniela da Napoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, come donna, volevo manifestare la mia solidarietà alla famiglia di questa povera ragazza, perché io penso, sostanzialmente penso due cose. Una, che le leggi o se ci sono vengono applicate in maniera forse un po' miti. D'altro canto noi abbiamo probabilmente degli avvocati capaci di utilizzare tutti gli escamotage che le leggi consentono per far sì che un tentato omicidio venga addirittura tramutato in arresto domiciliare. Si chiama garantismo, ci sono degli avvocati, c'è un giudice che decide. Certo. Comunque gli arresti domiciliari è una forma di carcerazione, non è che uno gli arresti domiciliari, cioè vuol dire come stare in carcere ma a casa. E non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa tecnicamente, però. Anche perché noi lo vediamo nel caso di boss della camorra, cioè dove dire, laddove non vengano date delle misure rigide possono scappare. Io sostanzialmente volevo dire due cose. Una è che gli avvocati sono capacissimi, ed è anche giusto perché vengono pagati per essere bravi e utilizzare delle formule che la legge gli consente, voglio dire, tanto di cappello agli avvocati, ma siccome non possiamo dire agli avvocati di essere meno bravi, a questo punto dovremmo dire ai magistrati di essere o più, di cambiare le leggi o di applicarle in maniera più rigida. Ma comunque il presidente del tribunale di Napoli ci ha detto che non so se è ancora con noi il presidente Alemi, la linea è caduta ma adesso vediamo di recuperarla. Ha detto che il provvedimento è stato ex post un errore. Ecco, avvocato De Pace, le chiedo, lei non è una penalista, ma insomma quando legge che in questo provvedimento comunque alla persona è stata data la possibilità di lasciare il carcere e recarsi senza scorta presso la sua indicata abitazione a Terracina per gli arresti domiciliari e la procura era decisamente contraria, io un pochino mi stupisco, insomma, a dire. Sono d'accordo, è veramente inaccettabile che ci sia stato questo tipo di provvedimento proprio uscendo dal carcere, anche perché non ci si può fidare della lealtà e della correttezza di una persona che ha tentato di uccidere, quindi mi sembra eccessivo. Purtroppo ribadisco, ci sono giudici estremamente sensibili al garantismo e giudici invece che sono molto più severi, solo che non si può dare sempre solo la colpa allo Stato e alle istituzioni. Ormai di questo problema della violenza delle donne, da quando si parla dei diritti delle donne, da quando le donne hanno avuto i diritti, si parla, si informa, si dice, tutti possono ascoltare, tutti possono sapere. Eppure succedono. E però succedono. Allora, se ci sono questi problemi, se è stata fatta la legge anti-stalking, è perché esiste una violenza insita nell'animo umano, esistono queste cose. Le donne stesse, c'è anche una responsabilità individuale nello scegliere le persone che si frequentano, nel cercare di capire, nel non rimanere talmente dipendenti da una persona da dover accettare le carezze del nemico. Anch'io ho paura a uscire per strada, che sono una attenta a qualsiasi cosa, anch'io mi faccio accompagnare, cerco qualcuno, approfitto di una persona che sta uscendo dicendo andiamo insieme. Tutti dovremmo applicare queste cautele, tutti. Io Paolo da Pavia, che ne pensa? Buongiorno. Sì, buongiorno, ma al di là di quello che ho sentito adesso, che dico comunque quello è un omicidio, no? Non è un santo per cui purtroppo prima era un tentato omicida, esatto, e dopo sei mesi è diventato, esatto, un omicida, cioè, della stessa però persona. Al di là della cosa contingente, secondo me, ma perché l'ho visto, purtroppo la legge italiana interviene troppo tardi, perché le avvisaglie di questa cosa quasi sempre ci sono dai carabinieri, ci sono dalla polizia, ci sono nei centri preposti. Purtroppo se non c'è un fatto drammatico, dall'aggressione purtroppo all'omicidio o a stragi di famiglia, come si sente spesso, la legge non interviene. E questa persona, se è malata, non è messa in condizione di curarsi, a volte anche in modo violento, come si fa con un tossicodipendente, è tra virgolette legittimata, perché comunque anche quello che sento dire adesso è quella donna se l'è cercata, cioè è vero, in parte se l'è cercata, però cacchio, parliamo, scusi il termine, di un delinquente. Certo. Ecco. Ma tra l'altro io per esempio qualche giorno fa è venuta fuori una notizia che è stato anche assolto per il totale incapacità di intendere di volere uno dei molestatori, purtroppo uno, perché Michel Hunziker ne ha più di uno, ecco, che ha cercato per anni, ha molestato Michel Hunziker. Ora io mi chiedo, giustamente qualche giornale ha commentato, certo Michel Hunziker in questa posizione è, diciamo, ha la tra virgolette, tra molte virgolette, fortuna di essere una persona che può permettersi di avere anche bodyguard, persone che la seguono, ma è normale dover pensare che una persona che molesta con minacce continue poi debba essere assolta per capacità, incapacità totale di intendere e di volere? Professoressa Boldri, lei che dice che la legge c'è, che si può applicare, spesso si dice denunciate, denunciate perché ora le donne vengono aiutate, io tutte le volte che ne parlo dico, in realtà la percezione sembra un'altra, cioè che ci sia un totale, non dico totale, ma un po' di abbandono in realtà quando si denunciano queste cose, o mi sbaglio? Allora, c'è da dire che per fortuna, insomma, con l'avvento delle nuove legislature, con una sensibilità sicuramente da vari punti di vista, istituzione, privato e sociale, dell'opinione pubblica, sono aumentate le donne che denunciano, che escano allo scoperto, perché se spesso ci si domanda se sono aumentate le violenze o meno, non avendo termini di paragone non sappiamo se effettivamente c'è un incremento dei numeri dei reati. Però sono aumentate queste denunce, ma non è che è perché ripongono una fiducia, ma sbagliando sulle leggi che ci sono? Allora no, assolutamente no. Questo è un messaggio che deve uscire chiaro, è importantissimo che chiunque subisca qualunque forma di violenza, sia essa fisica, psicologica, anzi non aspettare, perché spesso rimanere in silenzio e cercare di risolvere da sola, soprattutto quando si tratta di un ex, cioè di una persona con cui si è avuta una relazione, ecco, il famoso ultimo appuntamento potrebbe essere l'ultimo davvero e fatale. Quindi è importantissimo semmai che tutti quanti i soggetti che a qualche livello lavorano intorno a questi casi, noi da tempo ci occupiamo di quella che non solo è la formazione ma anche l'implementazione di un approccio che è quello della valutazione del rischio, come si diceva prima, cioè un approccio più prognostico di quella che può essere una recidiva, che è molto spesso insita in queste condotte, e questo è un atteggiamento e anche una valutazione che sia il giudice, che l'avvocato, che gli operatori dei servizi sociali, sono tantissimi soggetti che devono ruotano tutti intorno valutare a questi casi, non devono avere visioni diverse, perché io non posso pensare che un giudice abbia un giudizio e se ci fosse stato qualcun altro ci sarebbe stato un altro. È chiaro, però i parametri scientifici per fare questo tipo di valutazione. I parametri scientifici sull'applicazione della legge, come questo provvedimento per esempio insegna, la procura decisamente contraria, al giudice ha detto di sì. Alessandra da Brescia, vediamo, concludiamo con lei. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io vorrei fare un intervento un po' semplice, se vogliamo anche semplicissimo. Bene. Però vorrei far notare che la prima frase, la prima osservazione che è stata fatta dal presidente del tribunale è stato: ma perché questa ragazza si è recata a casa di quello che sarebbe stato il suo carnefice? Ancora una volta il primo dito puntato non è sull'assassino ma è sulla ragazza. Questo sì, Alessandra, però lei conviene con me che purtroppo è dura, è amaro dirlo, ma se è andata volontariamente da questa persona che era agli arresti domiciliari perché 5 mesi prima aveva tentato di ucciderla, sono d'accordo, è stata un'imprudenza enorme, cioè. Guardi, io non ho la fortuna, ho 37 anni, ho la fortuna di non aver mai subito nessun genere di violenza di questo tipo. Ma le assicuro che le violenze quotidiane che subiamo dai colleghi che si sentono in diritto di fare commenti, alla gente per strada che si sente in diritto di fischiarti perché hai un paio di scarpe col tacco un po' più alto, sono costanti. Questo è in dubbio, su questo siamo d'accordo. È una questione culturale, queste cose nascono all'interno di un ambiente che in questo momento ci dà contro. Certo, no, ma su questo siamo perfettamente d'accordo. Io con lei voglio finire e ringraziare Anna Maria Bernardini De Pace, la professoressa Anna Boldri, il presidente del Tribunale di Napoli, Carlo Alemi, ci ha lasciato gli ultimi minuti, era in viaggio e quindi la linea era un po' ballerina. Lo ringrazio. Ringrazio come al solito Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Che dire, la linea va a Oscar Giannino e ci troviamo domattina.